Senti Vagnoni, ma quando mi facciamo alla finestra e guardiamo Cuto Castai, i brilli non li vecchi. E quindi mi ha composto una canzone, lo ribellino e lo furbo, no travoto in combinazione. Rimagno ha sbagliato quando lo sole sta spendicane, dai la luce rende ignora la pelle. Crescono buoni e brutti che noi viviamo, a mano e chiaro chiaro risaggiamo. Sicura io a raccontare di stato una magica moto speciale che viene imbrazzata di stumare, così pulito che ti puoi spicchiare. Tra la terronia noi vagnoni sta vivimo e non ni vergogniamo, ma la difendiamo di tutti questi cani. Ora rovinano so tanti aggettivi, cani vola a filo. Li chiami mafiosi, li chiami ignoranti, ma noi la cultura la sappiamo in tanti. Ti vuoi zira capo, rimani stregato, guarda lo cielo come stizzato. Pare una cosa assurda di un quadro, circondati in un paesaggio che lo signor gli è disegnato. Ogni giorno che lo vecio mi rallego a capo, ringrazio a Ido Bice qua Gianato. Rimagno abbagliato quando lo sole sta splendicane, dai la luce rende ignora la pelle. Crescono buoni frutti che noi beviamo, a mano e chiano chiano li assaggiamo. Rimanga abbagliato quando il sole sta splendicane, dai la luce rende ignora la pelle. Siamo noi l'indigene di sto posto speciale, che con tutto il cuore lo stai ad amare. Bene mo dammi che toccasi a me, son tu lo fusco e non è un re. Capresa sta terra di miero riserva, non mi la toccare, che sto pronto pure con la difendo con una guerra. Senti buono tu, sentimi buono che niente rovinammo qua, ci non notti la stuccia. E siamo tutti una famiglia e non c'è guerra tra di noi. Damo un cuore con molta passione a tutti quanti voi. Basta ca, che rispettiamo per quelli che siamo di doggi. Buena mano, donca stai, stai pure di stai lontano. Quindi lo butto di sta terra mia. Donca si gioca, si scherza, si balla, ma soprattutto si fa via. Che migliora sta situazione, mi crescere con uno bello bagnone. Stordi che sono e che non ci trattano, mamma c'è disperazione. Ma il sole brucia ogni problema creato da questo sistema. L'odore di questa terra mi fa arrivare alla felicità suprema. Questo è il tema che già da piccolo nasceva, ed ogni giorno che passava sempre di più cresceva. Rimagno abbagliato quando il sole sta splendicane, dai la luce rende ignora la pelle. Crescono buoni frutti che noi beviamo, a mano e chiano chiano li assaggiamo. Rimanga abbagliato quando il sole sta splendicane, dai la luce rende ignora la pelle. Siamo noi l'indigene di sto posto speciale, che con tutto il cuore lo stai ad amare. Mi sento circondato di la vigna e di l'aurea, di lo vento rinfrescante che da noi sempre ria. Fa più la carosa e la borsa tra gli stelli, sembra mare passiamo le notti più belli. Rimagno abbagliato quando il sole sta splendicane, dai la luce rende ignora la pelle. Crescono buoni frutti che noi beviamo, a mano e chiano chiano li assaggiamo. Rimanga abbagliato quando il sole sta splendicane, dai la luce rende ignora la pelle. Siamo noi l'indigene di sto posto speciale, che con tutto il cuore lo stai